in primo piano. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Prima di iniziare volevo rispondere agli ascoltatori che ieri ci hanno scritto, magari vorrebbero una rassegna con più approfondimenti, e forse avrei dovuto dirlo il mio primo giorno. La mia idea di rassegna stampa, avendo la fortuna di ricevere una mazzetta con oltre 10 giornali, è di darvi proprio una panoramica e qualche spunto, magari facendovi venire voglia di comprare un quotidiano in più, perché in ogni giornale c'è molto di più di quello che io posso raccontarvi. Detto questo, iniziamo come sempre dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera oggi sceglie di aprire sulla risposta che arriva dal Quirinale, o in generale anche da altre forze politiche, sull'ipotesi Grazia. Il virgolettato è di Epifani, che ha concesso parecchie interviste, una delle quali è il Corriere della Sera, che dice: niente sconti a Berlusconi. Il governo sarebbe a rischio, risponde il segretario del PD, la legalità viene prima. E l'ipotesi che invece piacerebbe a Epifani è che Berlusconi facesse un passo indietro e poi si facesse veramente in Parlamento quella riforma elettorale per finalmente abrogare il Porcellum, e dice Epifani: la riforma elettorale si fa con chi ci sta. C'è una retroscena di Tommaso Labate, quel piano fallito per la crisi di governo, ne parlava anche ieri, ricordate, proprio in un'intervista al Corriere della Sera, Quagliariello del PDL, e oggi c'è appunto questa analisi di Tommaso Labate. Vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera anche l'editoriale di Michele Ainis, il costituzionalista, che parla di questo affanno interpretativo delle leggi che c'è in Italia. L'editoriale si intitola L'incertezza del diritto. Sapete, in Italia abbiamo una quantità gigantesca di leggi, credo 10 o 15 volte tante quelle della Germania, e quindi diventa spesso appunto un problema interpretarle. Non a caso siamo un po' il paese degli azzeccagarbugli. Questo è il senso e il rischio che vede Michele Ainis. Vi leggo le ultime righe del suo editoriale: potremmo rallegrarci del ruolo esercitato dal diritto nella nostra vita pubblica, ma alla fine della giostra potremmo anche uscirne più malconci. Se alla forza delle regole si sostituirà l'interpretazione capziosa delle regole, e se i politici, non avendo più un'idea politica da consegnare agli elettori, si trasformeranno in altrettanti legulei, cioè interpretatori capziosi delle leggi. I sintomi già ci sono tutti. Ma dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo l'approfondimento, c'è su tutti i giornali, però insomma io ho scelto di prendere quello del Corriere della Sera, come ho fatto ieri con l'articolo di Massimo Gaggi sull'acquisto, che ieri ho definito la notizia del giorno, di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, del Washington Post per 250 milioni di dollari. Il titolo dell'articolo è: quei miliardari a caccia di futuro. Rimanda a due approfondimenti alle pagine 12 e 13 di Massimo Gaggi e di Beppe Severgnini, perché entrambi cercano di spiegare che in realtà non c'è solo Bezos, è secondo loro quella stagione dei nuovi tycoon tra ricerca, giornali e filantropia. E quindi appunto a pagina 12 e 13, due pagine intere praticamente, c'è un ritratto di Jeff Bezos scritto da Beppe Severgnini, molto divertente e interessante, si intitola Jeff B e la carpa che canta. Il genio di Seattle non ha inventato nel PC, nello smartphone, nel tablet, la sua specialità è vendere anche pesci di plastica con voce da baritono. Sentivo ieri proprio a Focus Economia che il nostro collega Luca Tremolada spiegava che ricordava che Jeff Bezos viene dalla finanza, quindi non è, diciamo, uno di quei di quegli esperti di tecnologia come possono essere Mark Zuckerberg di Facebook. Lui è, tra l'altro, anche qualche anno in più rispetto a appunto questi piccoli genietti super miliardari come Zuckerberg o Eric Schmidt di Google. Lui è undicesimo tra i 400 uomini più ricchi d'America, spiega Beppe Severgnini, ed è appunto un abilissimo venditore. C'è inoltre un'intervista di Massimo Gaggi a un esperto di media, Michael Wolff. Da Google a Facebook ora si sveglieranno tutti i big della rete. Vi leggo l'ultima parte di questa intervista molto interessante. Adesso che se ne fa Bezos di un cadavere? Perché il Washington Post, come moltissimi quotidiani americani e non solo, era in difficoltà, forse il termine cadavere un po' esagerato, risponde Michael Wolff, il suo intervento è la cosa migliore che potesse accadere al Washington Post e all'editoria tradizionale in genere. I Graham, che sapete sono la dinastia che ha controllato il Washington Post per molte generazioni, ammettono finalmente che un business è finito e voltano pagina consegnando il giornale a uno dei pochi imprenditori in grado di reinventare un modo economicamente praticabile di fare il giornalismo. Chiede ancora Massimo Gaggi, lui si è presentato come un filantropo, dice che confermerà tutti i capi attuali della società e il direttore del giornale, ha già un mestiere a Seattle e non ne cerca un altro a Washington. Risponde Michael Wolff, balle, ha speso molto per il giornale, poco in rapporto al suo patrimonio personale, ma non è un filantropo, gestirà e come, ristrutturerà e cercherà nuovi modi di far fruttare il giornalismo, è questa sfida che lo ha spinto a muoversi e gli altri seguiranno. Su questa vicenda, della quale vi ripeto parlano tutti i giornali con tanti approfondimenti interessanti, però non possiamo leggerli tutti, però vi segnalo perché mi ha molto colpito, perché è forse uno dei più originali, l'editoriale sulla prima pagina del Foglio di Giuliano Ferrara, lo riconosciamo perché è firmato con quell'elefantino rosso. Il titolo è Jeff Bezos e Diego Della Valle. C'è un paese in cui i capitalisti rischiano, mettono soldi, provano a trasformare crisi distruttive in trasformazioni nel cuore dell'establishment, e sarebbero naturalmente gli Stati Uniti. E un paese in cui tutto rischia di essere meschino, e sarebbe l'Italia. Vi leggo la prima parte perché, appunto, secondo me offre degli spunti di ragionamento. Utili. Comprare il Washington Post, non comprare il Corriere della Sera. Ciascuno fa quello che vuole dei suoi soldi, ma sta a chi scrive sui giornali distinguere, discernere e cercare di capire. Non siamo l'America. Lavoriamo meno, siamo infinitamente meno produttivi, abbiamo un sistema di regole vecchio, un welfare incautamente generoso, una mobilità inferiore, uno Stato molto più in piccione, un sistema di istruzione e di cultura protetto, ma tutt'altro che all'altezza delle necessità di uno sviluppo sensato, un modo di essere e di funzionare del capitalismo che è intrinsecamente pattizio, poco libero, poco coraggioso. E poi dice anche la vita da noi è più dolce. Ogni buon americano sogna il viaggio vacanze in Francia o in Italia, gli artisti facoltosi vengono in residence e bevono con piacere vini magnifici in un clima permissivo. Ma i costi da concertazione e corporazione che sopportano le giunture sociali più delicate del paese, compresi i giornali travolti dalla crisi e dall'insicurezza identitaria, sono ormai poco sostenibili. E qui entra appunto il paragone con Diego Della Valle, il fondatore e amministratore legato e presidente del gruppo Tod's. Diego Della Valle avrebbe qualcosa di berlusconiano e dunque anche un tratto americano, quali che siano le simpatie o le antipatie che il personaggio pubblico è capace di ispirare con le sue guasconate, i suoi compromessi al ribasso e le sue vanità. Non è solo il proprietario di un'industria che produce scarpe e un butticaro del Made in Italy, ha elargito per la ristrutturazione del Colosseo un percorso trionfale e anche inedito del denaro privato nell'interesse pubblico, che gli è costato le solite rogne amministrative e giudiziarie che tengono sotto qualunque innovatore. Per vie diverse da quelle della straordinaria avventura tecnologica legata al web, Amazon, Della Valle è arrivato a un buon livello di liquidità capitalisticamente disponibile. Non saranno i quasi 30 miliardi di dollari di Bezos, ma l'imprenditore che sul Corriere della Sera ha lanciato un confuso bid, un'offerta virtuale, è sotto molto i profili un vedente nel paese dei ciechi. E sapete che appunto da pochi giorni è finalmente partito il piano di ristrutturazione del Colosseo, per il quale Diego Della Valle ha messo sul piatto 100 milioni di euro, ma che aveva avuto parecchi intoppi burocratici, tra quali un paradossale ricorso del Codacons. Bene, questa era la vicenda Amazon, che come avrete capito mi appassiona molto, ma sul Corriere della Sera ho trovato anche una notizia che non ho visto altrove e che quindi vi segnalo, una pagina intera su un rapporto che spiega come l'acqua italiana non sia mai stata così cara e, pensate, un terzo si perde nelle tubature. Tariffe su del 33% in 6 anni, record nelle città toscane. Gli aumenti maggiori rispetto al 2007 sono stati registrati a Reggio Calabria e Lecco. È un tema interessantissimo, sapete che l'acqua spesso viene definita l'oro blu perché da noi per fortuna non è rara, in molti altri paesi sì, però da noi si scopre è diventata molto costosa. Sarebbe una ragione in più per sprecarne il meno possibile, invece scopriamo appunto che ne sprechiamo ancora tantissima. Passiamo alla prima pagina della Repubblica. Anche qui, come per il Corriere della Sera, il titolo è su quello che Repubblica chiama lo stop del Quirinale. Non è l'opinione quindi soltanto di Epifani, ci sono molte persone che pensano che appunto la richiesta implicita o dichiarata al Presidente della Repubblica, che è l'unico che può dare la grazia, sia in realtà inopportuna. Niente intrusioni, questo è il virgolettato che Repubblica mette nel sommario. Bufera sul giudice di Cassazione per un'intervista. Questo è l'altro elemento. L'avete sentito anche nel GR, c'è stata questa intervista di Antonio Esposito. Avete sentito nel GR anche uno stralcio della registrazione, perché il giornalista che l'ha intervistato per cautelarsi, ha fatto bene, visto che poi lui ha smentito, aveva registrato l'intervista. E oggi sulla Repubblica c'è addirittura un editoriale del direttore Ezio Mauro, è una cosa abbastanza rara, e l'editoriale si intitola Perché bisogna dire no. Ma dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo un articolo di Michela Marzano, che è una filosofa e insegna in Francia. Oddio, non so se si è preso un'aspettativa, perché dalle ultime elezioni anche una parlamentare del PD. Il tema che affronta oggi è quello dei diritti dei colpevoli. E lo spunto è, anche questa notizia l'avete sentita nel GR, il caso del pusher fermato dai carabinieri e morto asfissiato, così ha stabilito l'autopsia, in caserma a Sanremo. Scrive Michela Marzano che in uno stato di diritto le forze dell'ordine abbiano il dovere di garantire la sicurezza di tutti i cittadini e di vivere insieme il vivere insieme collettivo è fuori discussione. Ma l'editoriale poi prosegue a pagina 27 e ve ne leggo l'ultima parte, offre anche questo spunti interessanti di riflessione. Deve essere estremamente complicato far rispettare la legge e proteggere la sicurezza dei cittadini. Talvolta deve essere drammatico farlo, sapendo che può succedere qualunque cosa non appena si abbassa la guardia. Ma si dovrebbe farlo sempre sapendo che la giustizia, per definizione, non è vendicativa e che la protezione degli uni non implica mai il non rispetto degli altri, come ha spiegato più volte Albert Camus, parlando della barbarie e della tortura. Non si può voler difendere la civiltà quando ci si comporta in modo incivile. Si rischia di fare esattamente come coloro da cui ci si vorrebbe difendere. Dalla pagina degli editoriali vi segnalo anche un intervento di Laura Boldrini. Scusate se sorrido, ma la Presidente della Camera mi sembra particolarmente attiva nello scrivere ai giornali in questi giorni. Ieri un suo lungo intervento sulla stampa, oggi un intervento non lungo come quello di ieri sulla stampa, ma abbastanza lungo anche questo, una lettera alla Repubblica con il suo no al reality tra i profughi. Sapete, c'è questa polemica sul reality che la RAI starebbe per mandare in onda, in realtà adesso è tutto fermo perché c'è stata un'interrogazione parlamentare ambientato appunto nei campi profughi. Scrive Laura Boldrini, che è stata accusata da alcuni esponenti del PDL di essere in realtà d'accordo con questo, addirittura di essere l'ispiratrice di questo reality. Lei è stata fino all'anno scorso portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e infatti lei scrive: l'anno scorso partecipai ai primi contatti con la RAI. Sull'esempio di analoghe trasmissioni prodotte da TV di altri paesi, si ipotizzò una trasmissione che avesse l'obiettivo di rendere più comprensibile all'opinione pubblica italiana la condizione vera dei rifugiati. Però, conclude Laura Boldrini, si pensava a un'operazione di sensibilizzazione, non a un reality o qualcosa di analogo, come invece indicherebbero le anticipazioni uscite nell'ultima settimana. Ci fermiamo un attimo per le informazioni sul meteo, torniamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, torniamo alla rassegna stampa. Prima però volevo rispondere a un ascoltatore che giustamente mi ha detto: lei ha parlato di ricorso paradossale del Codacons contro l'affidamento a Diego della Valle dei restauri del Colosseo, e non ha spiegato perché. Sostanzialmente il ricorso era perché il Codacons sosteneva che non c'era stata, semplifico, una gara trasparente per affidare questo restauro. Ecco, io l'ho chiamato paradossale perché sono anni, anni, forse decenni che il Colosseo ha bisogno di un restauro, non si sono mai trovati i soldi, quindi sembra un po' paradossale che nel momento in cui i soldi ci sono, la volontà c'è, il Codacons addirittura, cioè che dovrebbe proteggere i consumatori, dica: ma dovremmo fare una gara, e così si perde tempo prezioso e si esaspera anche chi era, tant'è che era appunto Diego Della Valle aveva minacciato poi di non procedere più con questo restauro, si esaspera chi vuole aiutare, vuole rafforzare questa partnership pubblico-privato. Ecco qua la spiegazione della parola paradossale. Ma veniamo alla prima pagina della Stampa, che sceglie di aprire sulle questioni economiche, che però approfondiremo poi dal quotidiano economico per eccellenza, il Sole 24 Ore. Vi segnalo invece dalla prima pagina della Stampa una fotonotizia che richiama a due articoli alle pagine 12 e 13. La fotonotizia si intitola La primavera araba spaventa i turisti. Sono infatti, spiega la Stampa, deserti, siti archeologici in Africa e Medio Oriente. E poi c'è uno spunto di cronaca, che anche questo avete sentito nel GR, con il pericolo che viene dallo Yemen. In Yemen ci sarebbe un'offensiva americana contro Al-Qaeda. Abbiamo letto ieri proprio un approfondimento sul Foglio sul fatto che lo Yemen sarebbe il paese dove si sta concentrando Al-Qaeda per reclutare, ma anche per partire da lì con i suoi esponenti più importanti in questo momento. Quindi emergenza Yemen, però appunto l'approfondimento della Stampa è anche su altri paesi, e quindi vediamo, oltre alla notizia sullo Yemen, dove, scrive la Stampa, è partita la controffensiva degli Stati Uniti, questo triste, se vogliamo, conseguenza dell'allarme terrorismo tra le rovine della primavera araba disertati dai turisti. Pochi visitatori, scrive Francesca Pace, ai siti archeologici in Medio Oriente e Africa. E così anche l'economia di questi paesi è in affanno. E a Luxor, in Egitto, molti hotel sono desolatamente vuoti. Ci sono le foto di Leptis Magna in Libia, di Palmira in Siria, di Luxor appunto in Egitto. E come sempre ci sono molte più conseguenze di tanti tipi a eventi di cronaca. In questo caso la primavera araba, il pericolo che si sente sia delle dimostrazioni di piazza che delle reazioni del governo, e poi l'effetto sul turismo. Ma vediamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, come vi dicevo, queste notizie economiche positive. Il titolo del Sole 24 Ore è Dai bonus per le PMI all'edilizia, le novità del decreto del fare, che sapete c'è stata una maratona al Senato ieri, e oggi il testo alle Camere, e dovrebbe esserci il sì finale. Saccomanni, il ministro per l'economia, ha fatto questa dichiarazione importante e impegnativa, e speriamo abbia davvero ragione. Quindi il sommario del Sole 24 Ore: Saccomanni, recessione finita. E poi ha sottolineato che sono già stati pagati 5 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, una dei nodi davvero da sciogliere, che pare, insomma, avviato, se non altro è stato fatto questo primo passo importante. Sulla questione del giudice Esposito, vi segnalo, perché i commenti, come potete immaginare, sono tantissimi sui giornali, però vi segnalo questo commento di Antonella Olivieri sulla prima pagina del Sole 24 Ore, perché l'ho trovato sintetico, ma particolarmente efficace. Ve lo leggo, si intitola Il peso delle parole. Ingenuità, imprudenza, vanità, stress da provocazione? Non si sa perché il presidente della sezione feriale della Cassazione, Antonio Esposito, abbia accettato di concedere l'intervista al Mattino, un bravo naturalmente ai colleghi che hanno fatto lo scoop, ma il giudice che ha avuto la responsabilità di leggere la sentenza più delicata degli ultimi 20 anni, praticamente in diretta in Mondovisione, alla richiesta di intervista poteva rispondere come Erbaltre di Melville: preferirei di no. Forse aveva l'esigenza di replicare indirettamente a chi l'accusava di anti-berlusconismo militante, rinvengando cene antiche in cui tra amici e in privato avrebbe mostrato le proprie simpatie politiche. Ma neppure questo vale come attenuante se quel discettare intorno al non poteva non sapere alimenta dubbi e rischia ora addirittura di aprire il fianco a un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Un giudice di 71 anni non può non sapere quale sia il peso delle sue parole, e non può non sapere che la toga, una volta indossata, fa perdere il diritto a cadere nelle provocazioni. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche un articolo di Marco Fortis, l'economista, ed è una notizia molto buona anche questa. L'Italia entra nel club 100 miliardi di surplus commerciale. Nel 2012 l'Italia è entrata a far parte del ristretto club dei paesi del mondo che possono vantare un surplus commerciale con l'estero per i prodotti industriali superiori ai 100 miliardi di dollari. Lo indicano le ultime stime del WTO, in base alle quali lo scorso anno il nostro paese ha fatto registrare un attivo per i manufatti non alimentari di 113 miliardi, alle spalle di Cina, che ne ha 866, Germania 394, Giappone 292 e Corea del Sud 205 miliardi. L'articolo continua a pagina 5. Sulla questione dell'editoria, quindi con il grande spunto di cronaca dell'acquisto del Washington Post, vi segnalo, richiamato in prima pagina, la notizia, perché abbiamo detto che i quotidiani sono in crisi non solo in America, non solo in Europa, anche in Italia, è innegabile per una crisi della pubblicità, per un aumento dei lettori del digitale, per tante ragioni. E c'è una segnale sulle 24 ore, c'è anche su altri giornali, però ve lo segnalo da qui. Editoria prima intesa col governo per arginare la crisi del settore. L'approfondimento lo trovate a pagina 10. Altri due approfondimenti della serie che in estate il Sole 24 Ore sta dedicando, da una parte al portafoglio e dall'altra parte alla casa. Oggi, per quanto riguarda il portafoglio, c'è un focus su Wall Street, ieri invece era sui listino italiano, perché conta più Bernanke dei dati sull'economia reale. Bernanke, sapete, è il governatore della Fed, la Banca Centrale Europea. L'articolo è di Vittorio Carlini e lo trovate a pagina 6. Invece per la casa ieri si parlava di compromesso, oggi invece del rogito, proprio dell'acquisto. Così l'IVA pesa sul prelievo, tutti gli sconti per la prima casa. L'articolo di Angelo Busani, l'esperto, uno degli esperti che scrive per il Sole 24 Ore sui temi della casa, a pagina 14. Sempre sulle 24 ore vi segnalo, perché dicevamo le due questioni, Amazon e editoria, sono parallele. Infatti sulle 24 ore è l'unico che le mette proprio affiancate. A pagina 10 trovate l'articolo di Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 ore da New York, ciclone Bezos dà la scossa ai media americani, e poi subito sotto l'approfondimento di Marco Mele, editoria prima intesa col governo, l'articolo richiamato in prima, per arginare la crisi, una piattaforma comune con 11 obiettivi. Dalla prima pagina del dorso di Finanza e Mercati, la buona notizia su Unicredit, seconda banca italiana dopo Intesa San Paolo. Il titolo è: Unicredit migliora l'utile, batte le attese. In Italia soffre, ma corre in Est Europa. E l'amministratore delegato Ghizzoni dice: guardiamo con fiducia ai prossimi mesi. Come sapete, un'altra questione che mi appassiona e che trovo non dovrebbe sparire tanto presto dai giornali è quella dei Ligresti. La famiglia è stata arrestata tutta, e come dicevo ieri, credo un caso senza precedenti, il 17 di luglio. E Stefano Elli ci aggiorna sulle inchieste. I Ligresti hanno chiesto di trasferire gli atti a Milano e ieri c'è stata l'udienza sui sequestri da 245 milioni. Naturalmente i Ligresti sono accusati, credo lo sappiate tutti, di moltissimi reati finanziari e di aver sottratto centinaia, non decine, centinaia di milioni di euro dai bilanci, e quindi sostanzialmente anche di aver ingannato tutti gli azionisti delle loro aziende, soprattutto quelli piccoli. Ma veniamo alla prima pagina del giornale, che come forse potevamo aspettarci si focalizza sul giudice Antonio Esposito. C'è una sua foto, il titolo su 5 delle 6 colonne di cui dispone il giornale in prima pagina è Il bugiardo. Il giudice Esposito spiega in un'intervista perché ha condannato il Cavaliere, poi nega tutto ma l'audio lo incastra e la sua scorrettezza finisce al CSM. L'articolo è di Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. Vi segnalo poi dalla prima pagina del giornale, ieri forse l'avrete visto sul Corriere, io non ne avevo parlato, ma c'era un approfondimento intero su questa, che riprendeva il tema lanciato da Time in America sul fatto che molte donne si sono forse un po' liberate dal senso di colpa di non volere dei figli o di farlo proprio come scelta, e che forse non si sentono appunto in colpa, ma si sentono addirittura più libere. Il giornale riprende questo dibattito, c'è l'opinione di Vittorio Feltri, ormai fare i figli è un obbligo, giusto ribellarsi, e gli risponde, in un certo senso le due cose sono affiancate sia in prima pagina che poi all'interno a pagina 19, Anna Maria Bernardini De Pace, un avvocato matrimonialista, che risponde: no, rifiutare la maternità è autolesionismo. Vi leggo le prime righe, visto che è un tema che secondo me è più giusto che trattino le donne che non gli uomini, però ben venga l'opinione di Vittorio Feltri. Scrive Anna Maria Bernardini De Pace: alzi la mano chi invidia una donna che non può avere figli, credo che nessuno possa alzarla, perché donna è sinonimo di maternità, poi ciascuna può decidere quando avere un figlio, se averlo o no, ma nessuna donna può negare di sentirne il desiderio fin dall'infanzia. Veniamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, perché anche in questo caso potevamo aspettarcelo, l'apertura è c'è in prima pagina, non è proprio l'apertura, c'è una strana disposizione degli articoli, però è in prima pagina il giudice Antonio Esposito. Tutti contro il giudice Esposito, ha osato dire che Berlusconi è colpevole. nell'occhiello c'è scritto fango, intervista contestata del presidente della Suprema Corte. Il PDL chiede di punirlo, la cancelliera, il ministro della giustizia, reclama spiegazioni per una frase non autorizzata e riportata dal Mattino, condannato perché sapeva, già contenuta nel verdetto d'appello confermato dalla Cassazione. Vi segnalo anche dal Foglio oggi un approfondimento, è un tema molto caro a Marco Travaglio, che del Foglio è cofondatore, editorialista, insomma lo conosciamo bene, questo tema delle carceri sovraffollate, attuale anche perché si è ricominciato a parlare di amnistia. Qui il tema è sganciato completamente dalle vicende di Berlusconi e il titolo dell'articolo è "Carceri, affari e numeri finti dietro l'inferno". Negli istituti strapieni molte celle sono inutilizzate. Il governo insiste costruire nuove strutture, mentre il Movimento 5 Stelle ribatte il loro obiettivo finale, l'amnistia per gli amici. Ci sono alcuni numeri. 66.000 sono i detenuti in Italia, 47.000 i posti dichiarati, 41.000 i posti effettivi, quindi abbiamo, vedete, un sovraffollamento di 25.000 persone. Sapete che per questa questione siamo anche stati condannati da alcune corti internazionali, perché è sicuramente una vergogna la situazione delle carceri italiane. Dal Fatto Quotidiano, prima di dare la linea al traffico, vi segnalo un approfondimento di Giorgio Meletti sulla figura di Alberto Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca. Viene definito il rottamatore a sua insaputa. Sostanzialmente a Nagel viene dato il merito di aver iniziato a sciogliere la ragnatela che lega le grandi dinastie italiane, Agnelli, Pirelli, Ligresti. L'obiettivo è garantire un futuro a Mediobanca, quindi un futuro alla banca di cui è amministratore delegato, e non è detto che ce la farà. Un'altra questione che mi sta molto a cuore, ve l'ho detto anche ieri, è quella del Monte dei Paschi, che sparisce un po' dalle prime pagine. C'è sul Fatto un articolo di Stefano Feltri, il gioco dello scaricabarile infinito su Monte dei Paschi, e anche questo ve lo consiglio. Ora lasciamo un attimo lo spazio al traffico e poi ci risentiamo per l'ultima parte della rassegna. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della rassegna stampa. Ora qualche approfondimento dalle pagine interne del giornale. Vi segnalo, io sono un grande amante degli animali, vi segnalo questo divertente articolo interessante anche di Danilo Mainardi, il grande etologo, dal Corriere della Sera, che parla dei babbuini di Cape Town. Ci sono delle foto veramente impressionanti di questi babbuini che scalano i condomini di Cape Town. Il titolo è "Cibo, tende e peluche, il bottino delle bande dei babbuini ladri". Questo è un problema delle nostre grandi città, non soltanto di Cape Town, cioè di animali che vivono fuori dalle città ma a un certo punto si spingono in città soprattutto perché pensano di trovare cibo più facile. Ma qui, spiega Danilo Mainardi, 500 esemplari che vivono nella città sudafricana si sono convinti di avere uno stato sociale superiore agli uomini che li temono. Entrano nel supermercato, prelevano intere cassette di frutta e le mangiano fuori. Vi segnalo dal Corriere della Sera anche una lettera che Tommaso Montanari, un critico d'arte, ha inviato sul caso Maxi. Forse l'avete seguito nei giorni scorsi. Giovanna Melandri è il presidente, ex parlamentare del PD, ex ministra della cultura, presidente del Maxi, l'aveva accettato l'incarico pro bono, senza compenso, poi dopo un anno ha deciso di darsi uno stipendio. Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera ha molto criticato questa scelta e lei ha scritto un'altra lettera indignata dicendo: dopo un anno di lavoro gratis è giusto che io guadagni. E Tommaso Montanari affronta la questione da un altro punto di vista e scrive: le riflessioni di Gian Antonio Stella sul compenso che Giovanna Melandri avrebbe voluto autoerogarsi come presidente del Maxi hanno colto un punto vivo e dolentissimo della politica culturale italiana. E il punto non è la pessima figura di chi prima dice di accettare un incarico totalmente gratuitamente e poi, ma solo a posteriori, precisa che il fioretto sarebbe scaduto dopo un anno come un Maxi yogurt. E non è nemmeno la due volte pessima figura di chi minaccia querele preventive verso chiunque osi insinuare che il cambio di statuto che trasforma il museo in ente di ricerca fosse finalizzato proprio a creare le condizioni per il Maxi stipendio. No, il punto vero è: qual è il ruolo della competenza nella macchina della cultura italiana? Scrive quindi Tommaso Montanari: non sarebbe meglio avere uno storico a Venaria, un contemporaneista a Rivoli e un egittologo a Torino? perché appunto Giovanna Melandri, benché sia stata ministro della cultura, scrive questo critico d'arte, forse non era la persona più adatta per dirigere un museo di arte contemporanea come il Maxi. Dalla Repubblica vi segnalo un altro caso di spreco di soldi pubblici, o comunque di un caso di spending review, ecco, chiamiamolo così. Pierluigi De Pentori ci racconta da Belluno quello che sta succedendo a Cortina. L'elicottero non è un taxi. A Cortina stangata da 7.500 euro per gli escursionisti imprudenti. Cartelle esattoriali a chi lo ha chiamato nell'ultimo decennio. Costa molto infatti avere questi l'elisoccorso e a volte non è così necessario. C'è una breve intervista a Simone Moro, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, che è un free rider, uno scalatore libero, e dice: con più senso civico e strumenti moderni i costi dei salvataggi si possono abbattere. Passiamo alla stampa, perché sulla stampa c'è un altro, visto che siamo in estate, ovviamente si parla di viaggi, c'è un grande reportage da questo rifugio al confine tra Svizzera e Val d'Aosta. L'articolo, il reportage, è intitolato Tra terra e cielo con i monaci delle vette, è il rifugio più antico e ci sono anche dei religiosi, si può arrivare, si può essere ospitati e allo stesso tempo si può passare un po' di tempo con questi religiosi. Il priore ha detto al giornalista della stampa Marco Albino Ferrari, che ha fatto questa escursione per poi potercela raccontare: siamo qui per tutti, è una tradizione che dura da secoli. Dal giornale, invece, dalle pagine del giornale, a proposito di cultura, anche qui un fatto di cronaca: un turista che ha danneggiato una statua al Museo dell'Opera del Duomo e racconta Enza Cusmai, la bellezza fatta a pezzi ci costa 5 milioni l'anno. Quindi questo turista americano che ha dato il 5 spiritoso alla statua del Duomo di Firenze e si è staccato un dito, è un danno enorme, però Enza Cusmai ci ricorda che in realtà questo non è un caso isolato e che appunto spendiamo molti soldi l'anno per poi restaurare queste statue. Sono 1,4 milioni di danni provocati in un anno dai vandoli al patrimonio culturale della sola Napoli, che è la città più colpita. 6 su 10 sono gli italiani che considerano lo sfregio all'arte peggiore di qualsiasi altro reato contro il patrimonio. Dalla Gazzetta dello Sport, che naturalmente è piena di anticipazioni, di articoli sul calciomercato, su quello che stanno facendo le grandi squadre italiane in questa estate, ma su questo c'è anche, lo trovate sugli altri giornali. Invece la Gazzetta dello Sport è riuscita a scrivere un articolo, poi gli aggiornamenti chi vuole li trova in rete, sulla Vuitton Cup che si sta tenendo a San Francisco, perché Luna Rossa ha vinto la prima sfida con Artemis in semifinale, bruciata in partenza, poi rimonta e sorpasso, Luna Rossa che fatica. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Vi segnalo la prima pagina del Manifesto, che si concentra su un fatto che di cronaca che ha trovato poco spazio, paradossalmente, se volete, ha trovato spazio sul Manifesto e sulla Padania, come vedremo dopo se c'è tempo, anzi poi ve lo dico subito per non essere magari accusata di faziosità. Comunque il fatto di cronaca è quello dei migranti che sono stati bloccati a 25 miglia dalla costa maltese. La Valletta nega lo sbarco, cioè Malta ha negato lo sbarco e dice: se ne tornino in Libia. Il Comitato Internazionale dei Rifugiati accusa, i diritti sono calpestati. Il titolo del Manifesto è Malta Marea, e la Padania, sullo stesso fatto di cronaca, titola: c'è chi dice no, Malta impedisce l'approdo a una nave con 102 clandestini a bordo e ignora gli ordini di Bruxelles che condanna il respingimento. Per la Lega è un esempio da seguire, con buona pace dei terzomondisti da salotto che alimentano la criminalità organizzata. Toni insomma un po', non so, che secondo me non aiutano a riflettere su questo problema umanitario, che è appunto delle persone che non hanno altra scelta che lasciare il loro paese affrontando viaggi pericolosissimi e senza alcuna garanzia di riuscire a trovare un futuro migliore. Comunque la questione naturalmente è aperta e nessuno ha una soluzione. Dal Manifesto vi segnalo un altro aggiornamento su, anche qui, una questione che sparisce dai radar, ma non per questo gli avvenimenti si fermano solo perché non ne parliamo, ed è la Siria. La Siria si è spaccata in tre parti, scrive Michele Giorgio. In questo quadro vengono anche i sequestri di Domenico Quirico, il giornalista della Stampa, di cui ancora non si hanno notizie, e del padre gesuita Dall'Oglio, sulle cui sorti la Emma Bonino, ieri ministro degli esteri, si è detta speranzosa. Si cerca appunto di un po' di capire, anche se è difficilissimo da qui, che cosa stia veramente succedendo in Siria. Assad, il presidente, jihadisti e curdi si danno battaglia, ma fanno anche affari, così scrive il manifesto. Vediamo la prima pagina di Libero. Anche qui, come potevamo probabilmente immaginarci, l'apertura è sul giudice, sulle esternazioni del giudice Esposito. Processo al giudice. Sul banco degli imputati finisce il magistrato che ha condannato Berlusconi. Esposito straparla col Mattino, si becca la reprimenda del suo presidente. Inopportuno. Poi tenta di smentire, ma il giornale pubblica l'audio dell'intervista e lo sbugiarda. Ma è curiosa anche un'altra notizia che ho trovato solo sulla pagina di Libero, che anticipa questo tour balneare di Berlusconi che partirà il 15 agosto. Silvio se ne va a far comizi in spiaggia e Barbara Romano ci racconta appunto come a partire da Ferragosto Silvio Berlusconi farà questo tour delle spiagge e farà quindi dei mini comizi, perché ovviamente in spiaggia non ci stanno tante persone, però un po' appunto nella stagione delle feste di partito Berlusconi sceglie questa strada per parlare con il suo elettorato e magari anche con qualcuno che non lo ha votato, insomma comunque ci saranno questi comizi nelle spiagge. Passiamo all'Avvenire. Ricorderete forse ieri aveva in apertura un'inchiesta sulle mamme in affitto, sugli uteri in affitto delle donne indiane che per pochissimi soldi appunto affittano il loro utero a donne occidentali che non possono avere figli. La seconda puntata di questa inchiesta, che si intitola Il mercato dei figli, è dedicata invece a Mosca e Kiev, anche in Russia e in Ucraina. Succede questa maternità surrogata, dove è legale, però spesso poi le donne che affittano i loro uteri lo fanno per pochi soldi perché è un modo per guadagnare qualcosa. Mosca e Kiev, succo europeo delle gravidanze, scrive l'Avvenire. Ancora dall'Avvenire, la questione di Venezia, dei terminal di Venezia, delle grandi navi che entrano a Venezia e sicuramente provocano dei danni, scrive l'Avvenire, termina l'offshore per liberare Venezia. Questa potrebbe essere una possibilità, cioè non farle entrare fino a dentro la città, fino a pochi metri dalla laguna. Naturalmente il problema è che spesso ai turisti viene promesso proprio questo: con la nostra grande nave entrerete a due passi, a due metri da San Marco, ma questo provoca gravi danni. Un'ultimissima segnalazione dalla prima pagina dell'Unità, che titola Non esistono salvacondotti, perché questa è la posizione del PD, l'abbiamo visto prima, e poi un'intervista a D'Alema, che era un po' sparito. L'intervista è Governo e PD cambino passo, Berlusconi alla partita finale, noi siamo i guardiani della stabilità, ora fissare le priorità di governo. E vabbè, sull'Unità c'è D'Alema che cerca di riguadagnarsi un piccolo spazio sul dibattito politico che c'è in questo momento, appunto l'opportunità di far proseguire questo governo, delle riforme e tutti i temi che conosciamo bene. Dall'Unità però vi segnalo un altro articolo, secondo me molto più interessante, ed è Do You Speak Leopardi? Tradotto in inglese lo Zibaldone, una lunga chiacchierata con il curatore dell'opera che appunto vuol far conoscere questo grandissimo autore italiano, poeta, scrittore, saggista e tante altre cose al pubblico inglese. Immagino difficilissimo tradurre la sua opera, ma ci hanno provato. È l'ultima segnalazione, purtroppo il tempo è finito. Una buonissima giornata da Giulia Crivelli, a domani.